Splendido pezzo dei Black Keys qui per noi. Grazie ragazzi, ci vediamo. Sì, sono andati. 11:42 Radio ZM, martedì mattina, è un po' che non ci sentiamo, abbiamo saltato le ultime 2 settimane, ma dovete sapere che questo è uno spazio molto, molto libero, molto, diciamo, a caso. Nel momento in cui qualcuno si sente di leggere qualcosa, il martedì mattina accendiamo questi bellissimi microfoni e leggiamo. In questo periodo io sto leggendo Le città della notte rossa di William Burroughs, faccio una breve pausa e vi lancio con un comunicato per il 20 giugno, questo sabato, perché siamo tutti in piazza, e voglio leggervi il testo dell'evento così da avere tutta una serie di informazioni che potete andare a trovare ovviamente su Facebook. Vogliamo giustizia. 20 giugno alle 15 sotto la regione Lombardia. L'eccellenza lombarda ha retto, nonostante lo tsunami che ci ha travolto. Questo è il mantra che ci propinano, come vecchi dischi rotti, tutti coloro che vogliono difendere l'indifendibile. È falso, niente di più falso. Chiunque abbia avuto un parente, un amico, un conoscente colpito dal Covid, conosce l'insopportabile falsità di questa affermazione. In Lombardia c'è stato un numero enorme di morti dovuto all'epidemia, più di 16.000 quelli ufficialmente registrati, ma sappiamo che grossa parte dei decessi non sono stati conteggiati nelle stime ufficiali. Si registra infatti un tasso di mortalità superiore ad ogni altra regione italiana. Troppe famiglie hanno perso i propri cari senza la dignità dell'ultimo saluto. Troppe persone sono state abbandonate in agonia nelle proprie case per essere ricoverate solo quando ormai la situazione era disperata. Troppi medici e dottori, lavoratori e lavoratrici hanno combattuto da soli e da sole, senza alcuna tutela. Troppi anziani e troppe anziane sono stati lasciate da sole a perire nelle RSA. Quanto dovremmo aspettare per avere giustizia? La salute in Lombardia è da troppo tempo diventata una questione di profitto. Gli interessi privati sono stati anteposti al benessere psichico, fisico e sociale della nostra comunità. Mentre eravamo costretti e costrette a restare a casa, moltissimi posti di lavoro, non certo fondamentali, sono rimasti attivi senza le adeguate misure di sicurezza per garantire gli interessi di pochi. Tutto questo non è avvenuto per caso. In Lombardia esiste una lobby di politici e affaristi che garantisce la sanità e da decenni lavora per distruggere il settore pubblico in favore di quello privato. Alla speculazione e corruzione si è aggiunta l'incompetenza nel gestire l'emergenza Covid. Basti pensare allo sperpero di denaro per l'ospedale in fiera e per mascherine inutilizzabili, mentre i medici di base sono stati abbandonati e abbandonate a loro stessi, senza la protezione adeguata, senza un vero coordinamento sul territorio e mentre i tamponi risultano tuttora, a 3 mesi dall'inizio dell'emergenza, una chimera. La gente è obbligata a pagare per usufruire dei test sierologici. Se è vero che in Lombardia ci sono ospedali eccellenti, è altrettanto vero che la medicina di prossimità, il famoso medico di famiglia che ha cresciuto e curato generazioni di italiani, è stato distrutto. Da questo, da Formigoni, Amaroni e infine Fontana e Gallera, e la giunta regionale sono politicamente responsabili. Tutti loro continuano a rivendicare qui è stato previcacemente e arrogantemente il loro operato, senza neppure avere l'umana decenza di chiedere scusa. Devono quindi andarsene a casa e liberare la regione dalla loro gestione criminale. Non siamo più disposti ad aspettare. Nell'assenza delle istituzioni nella nostra regione si è creata una rete di solidarietà dal basso che ha costituito una risposta concreta alla crisi economica e sociale causata dalla pandemia. Migliaia di volontari hanno sfidato la paura e la solitudine senza alcun supporto sanitario ed economico delle istituzioni competenti, dimostrando che l'unione tra le persone permette di superare anche le sfide più difficili. Questa incredibile attivazione dal basso ha dimostrato che un altro mondo è possibile, un mondo in cui la sanità e la cura della salute siano rivolte al benessere delle persone, un mondo che è l'alternativa da costruire rispetto all'attuale, di cui la pessima gestione dell'emergenza rappresenta solo la punta dell'iceberg. Siamo consapevoli che la devastazione ambientale sono una delle cause dirette dell'insorgere delle pandemie. Già altri virus, prima del Covid-19, come l'Ebola e il Zika, sono conseguenti all'alterazione antropica degli ecosistemi. La pessima qualità dell'aria in Lombardia ha reso la diffusione del virus ancora più pericoloso. Una svolta ecologica è fondamentale per salvaguardare la salute delle persone. Vogliamo una sanità per tutti e per tutte, una sanità che opera sempre nel rispetto della vita umana, di chi si cura e del fatto che ogni persona possa poter scegliere sul proprio corpo. La salute è anche espressione della libertà di autodeterminazione, soprattutto di chi ancora oggi viene discriminato e discriminata per genere e sesso. La vera emergenza inizia adesso. Centinaia di migliaia di famiglie hanno perso le proprie fonti di reddito e non vedono alcuna garanzia per il futuro. Con il pagamento della cassa integrazione ancora in gravissimo ritardo, anche, ma non solo, a causa delle lungaggini burocratiche della regione. Siamo rimasti a casa. Abbiamo perso il lavoro. Non riusciamo a pagare le spese e gli affitti, a sfamare i nostri figli, a garantirgli un'istruzione e una vita dignitosa. Ma ora pretendiamo che a rimanere a casa siano ben altri. Ai lavoratori della sanità, ai familiari delle vittime, ai medici, ai volontari dell'emergenza, a tutti coloro che hanno perso casa e lavoro e che vogliono giustizia, a tutti quelli costretti in casa in preda a solitudine, depressione e a violenza, e a tutti quelli che sta a cuore la salute delle persone e dell'ambiente. Non siamo più disposti ad aspettare. Scendiamo tutti e tutte in piazza il 20 giugno, manifestiamo sotto la Regione Lombardia, una mobilitazione stanziale sotto il Palazzo della Regione, con le mascherine e rispettando il distanziamento sociale. Intanto sono arrivati i Buena Vista Social Club insieme a Norberto. Questa è una delle canzoni più belle del loro disco, El Carretero. Me voy al trasbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Me voy al trasbordador. I Buena Vista hanno chiesto proprio, esplicando questo bisogno, questo desiderio, di tenere l'intero disco sotto la lettura di questa mattina, quindi faremo così, spero vi piaccia. Para poderme casar, que yo trabajo sin reposo. Abbiamo letto il testo dell'evento del 20 giugno. Vogliamo giustizia alle 15 sotto la Regione Lombardia. Amor de Loca Juventud, grazie, buona vista. Vi allontano un pochino. Andiamo avanti con la lettura de La città della notte rossa di William Burroughs. Siamo arrivati al capitolo Politica qui e morte, se non sbaglio, perché Norberto ha preso il libro, ne ha iniziato a sfogliare e ha perso il segno, ovviamente. Riprendiamo. Andiamo piano oggi. Remota, insonorizzata sala d'assemblea. Il dottor Pearson siede a capotavola, con alcune note davanti. Parla con una secca voce piatta accademica. Signore e signori del Consiglio, sono qui a presentare un rapporto sugli esperimenti preliminari con il virus B23. Considerate le origini di questo virus nelle città della notte rossa. Il bagliore rosso che copriva il cielo settentrionale di notte era una forma di radiazione che diede origine a un'epidemia nota come la febbre rossa, di cui il virus B23 si scoprì essere l'agente eziologico. Il virus B23 è stato chiamato, tra le altre cose, il virus della mutazione biologica, perché questo agente ha causato alterazioni biologiche nei soggetti colpiti, fatali per molti, permanenti ed ereditarie nei sopravvissuti, che diventano portatori di quella malattia. Gli abitanti originari di queste città erano neri, ma a un tratto apparve un ampio spettro di variazioni albine, e queste condizioni vennero trasmesse ai discendenti mediante tecniche di inseminazione artificiale che erano, a dir poco, altamente sviluppate. Effettivamente, come venissero concepite alcune di queste gravidanze mutanti è ignoto alla scienza moderna. Concezioni immacolate o quantomeno virali erano pandemiche e potrebbero essere state la causa di leggende, diamanti demoni, i succubi e gli incubi di folklore medievale. Il dottor Pearson continua. Il virus, agendo direttamente sui centri nervosi, provoca frenesie sessuali che ne facilitano il propagarsi, proprio come i cani con la rabbia sono spinti a propagare il virus della rabbia mordendo. Venivano praticamente varie forme di sacrifici sessuali, impiccagioni sessuali, strangolamenti, e venivano somministrate droghe che causavano morte in convulsioni erotiche. La morte durante l'atto sessuale era un caso frequente ed era considerata una circostanza particolarmente favorevole a trasmettere le alterazioni virali. Stiamo parlando di materiale genetico più o meno vergine e di alta qualità. A quel tempo, la neonata razza bianca stava lottando per la propria continuità biologica, così il virus servì uno scopo molto utile. Ad ogni modo, io metto in dubbio l'assentezza di introduzione e il virus B23 nell'America dell'Europa di adesso. Anche se questo potrà quietare la maggioranza silenziosa, che per generale ammissione sta diventando un po' incapace, dobbiamo considerare le conseguenze biologiche di esporre materiale genetico già danneggiato oltre ogni possibilità di recupero a un simile agente, liberando un'ondata di inimmaginabili, sfavorevoli mutazioni, tutte sfrenatamente perpetranti la loro propria stirpe. Vi sono state altre proposte. Cito il lavoro del dottor Hunurun Stepitz sui ceppi di virus radioattivi, lavorando con certi virus stabilizzati come rabbia, epatite e varicella, ha esposto generazioni di virus a radiazioni atomiche per produrre ceppi incredibili virulenza da diffondere nell'aria, capaci di cancellare intere popolazioni nel giro di pochi giorni. Però, quest'opera da manuale contiene una pecca. I problemi di inquinamento posti da miliardi di cadaveri radioattivi inadatti perfino come fertilizzante. Signore e signori, propongo di rimuovere il limite temporale, spostando il nostro teatro di esperimenti nel passato in modo da aggirare l'intero tedioso problema del sovrappopolamento. Potreste con ragione domandare se siamo sicuri di contenere il virus del passato. La risposta è questa. Non abbiamo dati sufficienti per parlare con certezza. Noi possiamo proporre. Il virus potrebbe disporre. Un uomo esile, sui 30 anni, dai capelli rossicci e occhi azzurri chiaro, è stato a prendere appunti mentre il dottor Pearson parlava. Guardò su e parlò con voce chiara, lievemente acuta, con una leggera traccia di accento tedesco. «Dottor Pearson, ho qualche domanda». «Certamente», disse Pearson con freddo disappunto. sapeva esattamente chi era quest'uomo e desiderò che non fosse stato invitato al congresso. Era John Alistair Patterson, nato in Danimarca, che ora lavorava a un progetto governativo segreto in Inghilterra. Era un virologo e un matematico che aveva inventato un computer per elaborare dati qualitativi. Patterson si appoggiò allo schienale della sedia, con una caviglia trasversale sul ginocchio. Estrasse uno spinello dalla tasca della camicia. Era una vistosa camicia e Pearson sembrò volgare. Pearson accese lo spino e soffiò il fumo verso il soffitto, apparentemente incurante degli sguardi di disapprovazione dei membri del consiglio. Abbassò lo sguardo sulle sue note. «La mia prima domanda è una questione di nomenclatura». Pearson si irritò quando si rese conto che Patterson faceva il verso ai suoi toni accademici. Gli esperimenti del professore citato prima, come lei saprà, consistevano nell'iniettare ad animali virus diversi e nell'esporre gli animali a radiazioni. Questa esposizione produceva mutazioni di virus sempre più potenti. Tirò una lunga boccata e soffiò il fumo sopra i suoi appunti. E con un potenziale di comunicazione sempre più alto, in parole povere, i virus mutanti erano molto più contagiosi. Direi che è una parafrasi più o meno accurata di ciò che ho appena detto. Non precisamente. I virus mutati erano prodotti da radiazioni e le cavie, essendo state esposte a radiazioni, naturalmente erano radioattive fino a un certo punto, ma non in modo pericoloso. I virus erano prodotti da radiazioni, ma non ne segue necessariamente che i virus fossero in sé stessi radioattivi. Non è forse il suo del termine virus radioattivo e la sua evocazione di miliardi di cadaveri radioattivi un po' fuorviante? Il dottor Pearson trovò difficile nascondere la propria irritazione. Io ho fatto notare che, a causa dei gravi rischi connessi a una sperimentazione su vasta scala, che tra l'altro potrebbe danneggiare la nostra immagine pubblica, i nostri dati sono incompleti. Ah sì? Altro che... E adesso, se vuole pazienza con me, dottore, ho qualche altra domanda. Lei ha detto che il virus B23 è il risultato di radiazioni? Domandò Patterson. Sì, l'ho detto, rispose Pearson. E in che modo differisce dai ceppi sviluppati dall'altro dottore? Pensavo di essere stato chiaro su questo punto. La forma di radiazione emanate dalla luce rossa è sconosciuta oggi. Quindi siete ignari della natura di questa portentosa radiazione e di come potrebbe essere prodotta in laboratorio? Sì. Non ha pensato che potrebbe essere simile all'RMO di Reich, prodotto mettendo materiale radioattivo in un contenitore organico foderato di ferro? Ma è assurdo! Reich era un ciarlatano, un pazzo! Ma come si permette? Chissà. Ma un esperimento così semplice ed economico potrebbe cominciare con l'herpes simplex. Ma io non riesco a vedere quale utilità. Pearson diede uno sguardo intorno al tavolo. Volti di pietra gli rimandarono lo sguardo. Stava nascondendo qualcosa e loro lo sapevano. Il dottor Pearson guardò il suo orologio. Temo che dovrò tagliar corto, ho un aereo da prendere. Patterson alzò la mano. Ma non ho finito, dottore. Sono sicuro che un leggero ritardo di un decollo si possa cambiare per una persona della sua importanza. Ora i ceppi di virus sviluppati dall'altro dottore erano certamente più contagiosi e più violenti dei ceppi madre di cui erano derivati, ma ancora ben riconoscibili. Per esempio, la rabbia aerotrasportata dal buon dottore sarebbe ancora riconoscibile come rabbia. Anche se i virus fossero mescolati in un cocktail, i singoli ingredienti sarebbero sempre relativamente facili da identificare. Lei è d'accordo, dottor Pearson? In teoria sì. A ogni modo non sappiamo, in assenza di esposizioni su vasta scala, se i virus non possono subire alterazioni o mutazioni che renderebbero difficile l'identificazione. Certo, quello che voglio dire è semplicemente che l'altro dottore cominciò i suoi esperimenti con certi virus conosciuti. Dottor Pearson, lei ha affermato che il virus B23 è il risultato di radiazioni ignote. Vuole lasciare intendere che questo virus fa quindi prodotto dall'aria fresca? Mettiamola in questo modo, dottore. Quale virus o quali virus noti o ignoti hanno avuto mutazioni come risultato di queste radiazioni? A costo di ripetermi, tornerò a dire che sia le radiazioni, sia il virus o i virus sono a questo punto ignoti, disse altezzosamente Pearson. I sintomi di un virus sono i tentativi del corpo di difendersi da un attacco virale. Dai loro sintomi li si deve conoscere, e anche un virus totalmente sconosciuto fornirebbe dati apprezzabili attraverso i suoi sintomi. D'altra parte, se un virus non produce nessun sintomo, allora noi non abbiamo alcun modo di sapere che esiste. Alcun modo di sapere che è un virus. E allora? E allora il virus in questione potrebbe essere stato latente o potrebbe aver convissuto in simbiosi benigna con l'ospite. Questo è possibile, certo! Ora, consideriamo i sintomi del virus B23. Febbre, irritazioni cutanee, un odore caratteristico, frenesie sessuali, ossessione di sesso e di morte. Ciò è totalmente strano e alieno. Non la seguo. Mi spiegherò meglio. Noi sappiamo che una passione divorante può produrre sintomi fisici, febbre, perdita di appetito, anche reazioni allergiche e pochi sindromi sono più ossessive e potenzialmente autodistruttive dell'amore. Non sono forse i sintomi del virus V23 semplicemente i sintomi di ciò che ci compiacciamo di chiamare amore? Eva, ci dicono, fu creata da una costola di Adamo, così un virus di epatite era prima una cellula di fegato sana. Mi scuseranno. Niente di personale. Siamo tutti macchiati di origini virali. Gli attributi complessivi della coscienza umana sono così come è espressa in maschio e femmina. Sono sostanzialmente un meccanismo virale. Suggerisco che questo virus, conosciuto come l'altra metà, sia diventato maligno come risultato delle radiazioni a cui le città della Notte Rossa furono esposte. E là lei mi ha seminato. Ah, sì, davvero. E suggerirei inoltre che ogni tentativo di contenere il virus B23 si mostrerà inefficiente perché non noi ci portiamo questo virus dentro di noi, disse Peterson. Veramente, dottore, non sta lasciando galoppare la sua fantasia? Dopotutto, altri virus sono stati riportati sotto controllo. Perché questo virus dovrebbe fare eccezione? Perché questo è il virus umano. Dopo molte migliaia di anni di coesistenza più o meno benigna, è ora di nuovo sulla soglia di una mutazione maligna. Ciò che il dottore di prima chiama un'epidemia su terreno vergine, questo potrebbe derivare da radiazioni già liberate con i test atomici. Dottore, cosa sta cercando di dire? Quello che sto cercando di dire è molto semplice. L'intera posizione umana non è più difendibile. È un'ultima considerazione. Come lei sa, si ritiene che un vasto cratere dell'odierna Siberia sia nato da un meteorite. Si teorizza inoltre che tale meteorite abbia portato con sé la radiazione in questione. Altri hanno supposto che potesse trattarsi non di un meteorite, ma di un buco nero, un buco nella struttura della realtà, attraverso cui gli abitanti di queste antiche città viaggiano nel tempo fino a un impasse finale. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón. Capitolo Il salvataggio. Sullo schermo, un'acqua forte seppiata. Scritto sotto a lettere d'oro. L'impiccagione del capitano Stroboe, il pirata gentiluomo, Panama City, 13 maggio 1702. Te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirá. Al centro della piazza, di fronte a un tribunale, il capitano Stroboe è in piedi, sulla piattaforma, con un cappio intorno al collo. È un giovane snello, di bell'aspetto, di 25 anni, vestito come nel XVIII secolo, con i capelli biondi legati in un nodo dietro la testa. Guarda sdegnosamente verso la folla. Una fila di soldati sta di fronte alla forca. Lentamente l'incisione diventa viva, esalando un caldo umido, un odore di erbacce e banchi di fango e fognature. Avvoltoi sono appollaiati sul vecchio tribunale di intonaco giallo che si sfalda. Il boia zingaro, esile, effeminato, con gli unti capelli ondulati e gli occhi luccicanti, è in piedi di fianco alla forca, con un ghigno contorto sul volto. La folla è silenziosa, a bocca aperta, in attesa. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que me dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado. Da un segnale di ufficiale, un soldato si fa avanti con una scure e fa saltar via il supporto da sotto la piattaforma. Strobo e cade, e resta là, appeso. I piedi pochi centimetri sopra il lastricato che è screpolato qua e là, erbe rampicanti che ci crescono attraverso. 5 minuti passano in silenzio. Avvoltoi volteggiano in alto. Sul volto di Stroboe c'è un sorriso strano. Un'aureola gialla-verde gli circonda il corpo. Il silenzio è rotto da un'esplosione. Pezzi di muratura piovono giù dalla piazza. Lo scoppio fa dondolare il corpo di Stroboe in lungo e in largo, con i piedi che sfiorano le erbacce. I soldati si precipitano fuori scena, lanciano solo 6 uomini a guardia della forca. La folla viene avanti, mentre si tirano fuori i coltelli, coltellacci e pistole. I soldati vengono disarmati. Un ragazzo dalle membra lisce come un malese mostra i denti bianchi e le gengive rosse mentre lancia un coltello. Il coltello prende il boia in gola, proprio sopra la clavicola. Cade boccheggiando e sputando sangue come un uccello ferito. Il capitano Stroboe viene tagliato giù dalla forca e portato in una carrozza in attesa. La carrozza si lancia in una via laterale. Dentro la carrozza il ragazzo allenta il cappio e spinge l'aria dentro e fuori i polmoni di Stroboe. Stroboe apre gli occhi e si contorce in agonia per i crampi e le fitte mentre lo circondano, e ritorna il ragazzo e gli dà un flacone di liquido nero. «Beva questo, capitano!» In pochi minuti il laudano fa effetto e Stroboe è in grado di camminare quando lasciano la carrozza. Il ragazzo cammina avanti lungo un sentiero nella giungla fino a un battello da pesca ormeggiato a un pontile alla periferia della città. 2 ragazzi più giovani sono sul battello. Gli ormeggi sono sciolti e la vela issata. Il capitano Stroboe si lascia andare su un pagliericcio nella cabina. Il ragazzo lo aiuta a svestirsi e lo copre con una coperta di cotone. Stroboe è sdraiato, con gli occhi chiusi. Non ha dormito nel momento della cattura 3 giorni prima. L'oppio e il movimento del battello diffondono un piacevole languore nel suo corpo. Immagini passano di fronte ai suoi occhi. Un vasto edificio di pietra in rovina, con colonne quadrate di marmo in luce verde subacquea. Una luminosa foschia verde, più densa e scura a livello del suolo, e sfumature fino a verdi, pallidi e gialli. Canali di un blu intenso e costruzioni di mattoni rosse. Sole sull'acqua. Un ragazzo in piedi nudo su una spiaggia, con genitali rosa scuro. Rosso cielo notturno sopra una città del deserto, grappoli di luce che piovono giù su gradini di arenaria e scoppiano in un muscoso odore di ozono, strane parole in gola, un sapore di sangue e metallo, una nave bianca che parte attraverso uno scintillante vuoto cielo spolverato di stelle, pesci cantanti in un giardino incolto, una strana pistola nella sua mano che spara scintille azzurre, bellissimi volti malati in una luce rossa, tutti che guardano qualcosa che lui non riesce a vedere. Si svegliò con un'erezione che pulsava e la gola dolorante e il cervello stranamente vacuo con un senso di realtà. Accettava il proprio salvataggio, così come era stato pronto ad accettare la propria morte. Sapeva esattamente dov'era, pressappoco 40 miglia a sud di Panama City. Riusciva a vedere la bassa linea costiera di paludi, di mangrovie intersecate di insenature, le pinne dei pescecani, la stagnante acqua del mare. Harbor Point. Nebbia mattutina, richiami di uccelli, scimmie urlatrici come vento tra gli alberi. 50 partigiani armati si stanno spostando verso nord, seguendo i sentieri della giungla panamense. Volti non rasati, al contempo vigili e provati per lo spostamento. Una natura rapida, che è quasi un saltellare, indica una lunga marcia forzata senza soste. Il sole nascente delinea i loro volti. Noam Blake, 20 anni, un giovanotto alto, di capelli rossi e occhi castani, faccia cosparsa di lentiggini. Bert Hansen, uno svedese dagli occhi azzurro chiaro. Clinch Todd, un giovane poderoso, dalle lunghe braccia e qualcosa di assonnato e latente negli occhi castani, macchiati di punti luminosi. Paco, un portoghese, con sangue indiano e negro. Sean Brandy, irlandese, scuro, con i capelli neri, ricciuti e un gran sorriso pronto. Il giovane Noam Blake sta avvitando il cane di una pistola a pietra focaia e intanto prova la molla, olio la canna e il calcio. Tende la pistola al padre, che la ispeziona con aria critica, alla fine annuisce. «Sì, figlio, questa può andar via con il suo marchio dei Blake». La vecchia Lady Norton ha cacciato dentro la testa in un negozio e ha detto che non dovrei lavorare nel giorno del Signore. E lei non dovrebbe ficcare il suo lungo naso moccioloso nel mio negozio del giorno del Signore, né nessun altro. I Norton non hanno mai comprato nemmeno mezzo penny di chiodi da me. Suo padre si guarda intorno per il negozio, con i pollici nell'ampia cintura, slanciato il rosso di capelli all'aria di un meccanico, distaccata, concreta. una faccia che bada ai fatti propri e si aspetta che gli altri facciano lo stesso. Ce ne andremo in città, figlio, dove nessuno gliene frega se va in chiesa o no. A Chicago, padre? No, figlio, a Boston, sul mare. Abbiamo dei parenti là. Padre e figlio si mettono cappotto e guanti, chiudono a chiave la bottega ed escono sulle strade ovattate del piccolo villaggio ammantato di neve sul lago Michigan. Mentre camminano nella nave, i paesani passano. Qualche saluto è rapido e freddo, con le facce voltate dall'altra parte. Vabbè, se i miei amici vengono a cena, padre, portano pesce e pane, che dici? Per me va bene, figlio, ma non sono ben visti qui. Si parla nel villaggio, figlio, si parla male di tutti voi. Se non fosse per via che il padre di Bart Hansen è un armatore e uno degli uomini più ricchi del paese, si farebbe anche più che parlare. Più in fretta ce ne andiamo e meglio sarà, fidati. Ma potranno venire anche gli altri, padre? Beh, figlio, potrebbe farmi comodo una mano nella bottega. Non ci sono limiti ai fucili che possiamo vendere in un porto di mare come Boston, e sto pensando che magari il signor Hansen pagherebbe per far andare via qui di suo figlio. Mattina di primavera, richiami di colombi nei boschi. Noah Blake e suo padre, Bert Hansen, Clitch Todd, Paco e Sean Brady salgono su un battello con i loro bagagli ammucchiati sul ponte. La gente del villaggio li guarda dal pontile. La signora Norton tira su col naso e dice che la sua voce è penetrante. «Una bella liberazione per tutti quanti!» lancia uno sguardo di traverso a suo marito. «Sì, così la penso anch'io», dice in fretta. Boston, 2 anni dopo. Il signor Blake ha fatto fortuna. Adesso ha contratti con armatori e i suoi fucili sono assai conosciuti. Si è risposato. Sua moglie è una tranquilla e raffinata ragazza di New York. I suoi sono importatori benestanti e commercianti con agganci politici. Il signor Blake progetta di aprire una filiale a New York e si parla di contratti con l'esercito e la marina. Noah Blake studia arti nautiche, vuole diventare capitano di nave e i ragazzi vogliono imbarcarsi tutti e 5. Aspettate finché trovate la nave giusta, dice Blake. Un giorno d'inverno, Noah Blake sta camminando lungo il porto con Bert, Clinch, Sean e Paco. Notano una nave chiamata Great White, piuttosto piccola, ma molto pulita e ben tenuta. Un uomo è appoggiato al parapetto, ha una grossa faccia rossa, sorridente e freddi occhi blu. «Ma che, voi ragazzi state cercando una nave?» «Forse», dice Noah cautamente. «Bene, salite a bordo». Gli viene incontro sulla passerella. «Io sono il signor Thomas, primo ufficiale». Tende una mano grande come un pezzo di bue con i calli e stringe la mano a tutti i ragazzi uno dopo l'altro. Li guida alla cabina del suo superiore. «Questo è il capitano Jones, padrone della Great White. Questi ragazzi stanno cercando una nave, forse». I ragazzi annuiscono cortesemente. Il capitano Jones li guarda in silenzio. È un uomo di età indefinibile e di un pallore grigio-verde. Parla diffusamente, in una voce piatta, con le labbra che appena si muovono. «Beh, potrei aver posto per 5 mozzi di coperta. Voi ragazzi avete qualche esperienza?» «Sì, sui grandi laghi», Noah indica Bert Hansen. «Suo padre aveva dei pescherecci». «Ah», dice il capitano Jones. «Marinai d'acqua dolce. Il mare è tutto un altro barile di pesci». «Io ho studiato arti nautiche», lascia cadere Noah. «Ah, davvero? E quale sarebbe il tuo nome, ragazzo?» «Noah Blake». Un'occhiata quasi impercettibile corre tra il capitano e il primo ufficiale. «E il tuo mestiere, ragazzo?» «Armaiolo». «Beh, allora non sarai per caso figlio di Noah Blake?» «Sì, signore, sarei io». Di nuovo i due uomini si scambiano un'occhiata. Poi il capitano Jones appoggia indietro alla sedia e guarda i ragazzi con i suoi morti occhi di pesce. «Partiremo fra 3 giorni. New York, Charleston, Giamaica, Veracruz. 2 mesi da andare, più o meno 2 mesi a tornare. Pago 10 sterline al mese i mozzi». Noah Blake cerca di non sembrare colpito. È il doppio di qualsiasi capitano abbia mai offerto. «Beh, signore, dovrò parlare con mio padre». «Certo, ragazzo, potrei firmare gli articoli domani se avrei deciso. Tutti e 5 voi». Noah è impaziente di parlare al padre. «Direi che è buono, no?» Eh sì, figlio, forse fin troppo buono. Il nome del capitano Jones non è bianco come la sua nave. È conosciuto nel ramo come Opium Jones. Trasporterà oppio, fucili, polvere, palle e altri arnesi. E non è troppo pignolo su chi fa affari con lui. Ma c'è qualcosa di male, padre? No, non è né meglio né peggio di molti altri. Soltanto non riesco a capire perché paga il doppio i suoi mozzi. Forse preferisce avere 5 buoni aiuti piuttosto che 10 beoni sul fronte del porto. Forse. Beh, se vuoi vai, ma tieni gli occhi molto aperti. De divinidad y de tener tan linda perfección, tal vez será que doy a la matrina, serán los filtros reinos del amor, luego vendrán los dedos del cariño de aquel volcán que llama tentadora, y tú podrás lograr que yo te quiera, porque tú has sido mi única ilusión. A malincuore vi saluto perché qua c'è sempre un sacco di cose da fare. Comunque abbiamo finito anche questo capitolo e vi assicuro che vi farò compagnia per ancora un bel po' di tempo, perché il libro è molto lungo, molto variegato. Vi ricordo che lo stile scrittorio di William Burroughs, nel senso, è accessibile da qualsiasi punto del libro, quindi non preoccupatevi se entrate in un podcast e non capite benissimo il filo. Comunque ci saranno poi dei contenuti aggiuntivi che manderemo su tutte le varie chat. Vi ricordo la chat per scriverci, radiozam-chat, il sito per andare a sentire la diretta www.zam-milano.it, la pagina Facebook Radio ZM e il canale Archive per tutti i podcast, che trovate sia sul sito come collegamento che su Archive digitando Radio ZM nel motore di ricerca. E ascoltateci, supportateci, ci vediamo sabato sicuramente alle 15 e ci sentiamo per tutti i programmi della settimana che trovate sulla pagina Facebook e sul canale Telegram Radio ZAM. Tutto per voi. Che io te quiera, perché tu sei, tu sei, tu sei, tu sei.